ivory soap. I've petted stray dogs and shied clear of dope. My smile is brilliant, my glance is tender, but I'm noted most for my unspoiled gender. I've been made Miss Rheingold, though I never touch beer, and I'm the person to whom they say, "You're sweet, my dear." The only etchings I've seen have been behind glass, and the closest I've been to a bar was at ballet class. Prim and proper, the girl who's never been cased. But I'm tired of being pure and a nut chase. Like something that sticks its level. I wanna go to the devil, I wanna be evil. I wanna spit tax, I wanna be evil. And cheat at jacks. I wanna be wicked. I wanna tell lies. I wanna be mean and throw my ties. I want to wake up in the morning with that dark brown taste. I wanna see some dissipation in my face. I wanna be evil. I wanna be mad. But more than that, I wanna be bad. I wanna be evil and trump an ace. Just to see my partner's face. I wanna be nasty. I wanna be cruel. I wanna be daring. I wanna shoot pool. And in the theater, I want to change my seat. Just so I can step on everybody's feet. I wanna be evil. I wanna hurt for lies. I wanna sing songs like the guy who cries. I wanna be horrid. I wanna drink booze. And whatever I've got, I am eager to lose. I wanna be evil. Little evil me. Just as mean and evil as I. Bentornate, bentornati a una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Oggi la tana del Wombat è ripiena, nel senso che c'è un sacco di gente. Infatti abbiamo iniziato mezz'ora dopo perché l'afflusso era difficile, che la tana è stretta, e in fila indiana ci abbiamo messo mezz'ora a entrare tutti. E trattasi di cioè quante persone ci saranno? Mille più, non si contano neanche tanti che siamo. Ora ne sentirete parlare solo un po' alla volta, perché comunque siamo come i Wombat persone ordinate e quindi sì, a turno. Quindi sentirete due, tre voci, ma siamo molti, molti, molti, molti, molti di più. Fatevi sentire voi che siete le voci. Ciao! Bella! Moltitudini, moltitudini. Perfetto. Migliaia. Avete sentito la voce della moltitudine. No, che poi la mia è sempre la stessa, ogni tanto sono qua, vabbè, cioè, non è che... No, non svelare niente. No. C'ho anche il microfono che ogni tanto gracchia. È perché c'hai un volume di voce poderoso. Lo so, caro. Allora, oggi sarà la prima puntata collettiva delle moltitudini che compongono l'Eclab If Do. In realtà anche le altre voci che avete sentito l'altra volta era sempre gente che era, insomma, raccattata in quei luoghi. Però oggi proprio è un esperimento, nel senso che abbiamo provato a fare un briefing su un tema. Il tema brainstorming, secondo me si dice brainstorming, cioè sì. le persone quelle sanno cosa. E abbiamo fatto questo coso su un tema specifico, che è il file sharing. E da codesta di discussione che è durata mesi, sostanzialmente, è stato molto impegnativo, abbiamo tratto poi questa sintesi che è di questa puntata, nella quale appunto affronteremo, se sopravvivo, la tematica in questione. Cioè, sono stato bravo? No. Ottimo, ottimo, direi. Bravissimo. Ora perché è una cosa nuova per me, io sono abituato a stare da solo, cioè qua con questa moltitudine che pende alle mie spalle qui dal microfono, che incombe su di me e non sono ancora tanto abituato. E quindi come vogliamo iniziare? Perché avevamo pensato di dividere in due, ci sarà una parte prima più discorsiva in cui noi sostanzialmente daremo queste perle di saggezza della nostra riflessione sul file sharing e poi delle ricette pratiche. Sì, sì, se, già l'hai posta in maniera già sarcastica, io ti ho capito, cioè, perché ho capito già che te subito vuoi il qui e ora e vuoi subito le ricette pratiche senza studiare la teoria, perché l'ho capito, cioè ormai... Cioè... No, io mettevo le mani davanti nel caso dicessimo cazzate a nastro. Ah, vabbè, ma quelle anche nelle ricette pratiche comunque vorrei dire, però vabbè... Sì, allora, siamo tantissime, quindi è un po' un casino capire come dividersi le cose. Però effettivamente sì, mani avanti perché non l'abbiamo mai fatto, quindi verrà forse un po' confuso tutto ciò. Però la tematica del copyright è ovviamente, abbiamo deciso di partire da questo per fare una puntata collettiva e forse era l'argomento più difficile perché c'è talmente tante cose da dire e tante cose sono state già dette che noi non vorremmo ripetere e quindi già solo capire da dove partire è stato complicato. Abbiamo capito cosa non volevamo dire, ovvero che già comunque son passi avanti, perché avevamo, per esempio, una delle prime cose che ci siamo detti è non stiamo a rifargli agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Wombat la solita pippa con tutta la storia del copyright che parte da Napster fino al giorno d'oggi. Del file sharing. Sì, peer-to-peer, file sharing, tutta questa cosa qua legata ovviamente al copyright e al no copyright, chiaramente si può approcciare da vari punti di vista, cioè il nostro punto di vista ovviamente è quello che il copyright è una cosa che ci fa schifo e ci sembra abbastanza insensata la difesa del copyright e anzi saremmo per una diffusione più libera possibile che ci riesce di tutte le idee, le cose materiali e immateriali. Siccome però questa cosa invece è avversata dal resto del mondo, diciamo, e allora ci sono quegli strumenti che sono nati nel corso degli anni che hanno fatto sì che queste cose si riuscissero a scambiare lo stesso. Quindi c'erano strumenti più o meno legali che ti consentivano di scaricarti, per esempio, i film, di condividerli con i tuoi amici, lo stesso si può dire della musica, di file, di un po' tutti i tipi. Questo... In realtà poi lo vedremo, non è l'unico modo per scambiarsi cultura e file, ci sono anche dei file della cultura che nasce già libera dal copyright perché chi l'ha creata ha deciso che non gliene fregava niente del copyright o anzi gliene fregava che non lo voleva e quindi ha rilasciato le cose sotto licenze Creative Commons per esempio oppure in public domain oppure no copyright e quindi vedremo che insomma in realtà questo tipo di file, di contenuti sono già liberi e quindi è più facile ovviamente condividerli e scambiarseli. Invece per quanto riguarda i file, quelli cattivi e i contenuti brutti e cattivi che magari sono belli, a noi ci piace lo stesso avere, che però invece nascono con delle licenze copyright, e quelli chiaramente abbiamo bisogno di scambiarseli con dei metodi che generalmente sono un po' più complessi. Ora, questa cosa in realtà, io poi sicuramente ho già fatto un disclaimer prima a microfoni spenti e adesso lo faccio a microfoni accesi. Io sono per il vintage, sono notoriamente nostalgica dei bei tempi andati, quindi chiaramente tutto quello che esce dalla mia bocca saranno rimpianti verso un'epoca migliore in cui tutto era molto più bello. Ad esempio... Le cassettine, quanto era bello quando c'erano le cassettine, cioè le cassettine audio dove te, cioè ora voglio vedere chi ti veniva a rompere i coglioni perché te facevi la playlist di brani musicali e ti piacevano e la regalavi al tuo amichetto, cioè questa cosa qua non è che ti arrivava il vigile urbano e ti faceva come hai passato dei contenuti che violano il copyright, gravissimo, hai girato la London Calling dei Clash al tuo amico su cassetta che poi generalmente sentiva anche una merda Quindi io sono nata, cioè sono cresciuta con tutta questa musica condivisa che gli amici ti passavano ed era tutto bello. Poi questa cosa non, con l'avvento dell'internet doveva questa cosa essere più semplice, in realtà è stata per certi versi sì, molto più semplice, perché poi a quel punto non era solo il tuo amichetto a poterti passare le playlist, ma un botto di gente sparsa per il mondo che magari neanche conoscevi e ti passava la sua musica e tutto era molto bello. Però poi c'erano cioè comunque le varie multinazionali e quel resto del mondo a cui non piace la libera circolazione della cultura, diciamo così, allora ha cercato di limitare questa cosa il più possibile. E quindi ci sono state le varie chiusure di Napster, le varie di cui avevamo detto non parlavamo, peraltro. E insomma, diciamo che da allora è sempre stata una battaglia per chi voleva comunque continuare a scambiarsi la roba e chi invece non voleva che questa cosa succedesse. E in particolare chi ci voleva fare soldi, perché poi alla fine stringe, ristringi, lì si va a parare. Ora, poi tutto ciò a un certo punto... Che è successo? È successo che sono arrivate delle piattaforme come Netflix, Amazon, eccetera, eccetera, che hanno detto, sai che c'è? Questi contenuti, film, serie televisive, musica, ma cioè, alla fine non è che ci fa schifo che voi le abbiate, le potete avere, o meglio, che voi le vediate o le ascoltiate, ma magari anche una volta sola, non troppe. Però dovete pagare, quindi fate un bel abbonamento. Cioè, l'importante è che noi ci facciamo i soldi. Esatto, basta che ci date 2 lire, ma anche poche, non è che c'è proprio siamo esosi, 2 lire, così, anche giusto per la carineria che ve le stiamo mettendo disponibili, e poi voi siete contenti, quindi siamo contenti noi, siete contenti voi. Ora, questa cosa in realtà io mi ricordo che non è che esiste da ora, cioè ci hanno provato già tantissime volte. Io mi ricordo che, 10 anni fa, forse anche di più, per esempio la Sony aveva provato a lanciare questa piattaforma di musica, dove tutti era l'epoca delle suonerie, non so se vi ricordate che momento aberrante della storia era quello, cioè una cosa tremenda, e si scambiavano molto le suonerie. Allora la Sony ha detto, siccome c'è la gente che si scambia le suonerie e addirittura c'è della gente che paga tot soldi al mese, ve lo giuro che c'era tot soldi al mese per avere ogni giorno delle suonerie diverse, cioè, un mondo veramente bizzarro, e allora si può fare la stessa cosa con la musica. Quindi perché non si fa un bel abbonamento, la Sony diceva, dove noi vi rendiamo disponibili, che ne so, ogni giorno vi regaliamo 3 MP3, chiaramente quelli gli piacevano a loro e all'interno di una cerchia, però insomma così era. E quindi tu pagavi, che ne so, 10 euro al mese e ti arrivava un po' di musica. Questa cosa non ha mai funzionato, c'è stato un flop clamoroso, penso che la Sony ci abbia investito un fracco di soldi ed è proprio finita nel baratro totale. Poi a un certo punto io con mia, se devo dirvela, perché io però sono ferma appunto all'epoca dell'Ottocento, con mia grande sorpresa invece questa cosa ha funzionato, perché effettivamente adesso Netflix, Amazon, tutte le varie... Spotify, tutte le varie piattaforme, non è che fanno una cosa molto diversa, e questa cosa funziona e la gente paga per un abbonamento, ma gente anche che io speravo che fosse più evoluta di così, e invece no. E quindi non so, io ora poi vado a dritto a 2000, intervenite anche voi che siete una moltitudine, che siete 1000. No, no, cioè vedo delle facce sconvolte. No, sta andando benissimo. Ecco, cioè, non avevo dubbi. No, la cosa che ci dicevamo era che questo uso quotidiano di questo tipo di cose ci pare aver cambiato abbastanza le nostre abitudini, e non soltanto le nostre abitudini, come dire, tecnologiche, ma anche le abitudini culturali, il modo con cui ascoltiamo la musica, il modo con cui guardiamo i film e come li scegliamo e come per esempio anche ci formiamo i gusti in fatto di musica, film, anche serie televisive, comunque contenuti culturali, ci è parso essere influenzato da, da questo nuovo tipo di nuovo poi insomma però sì nuovo tipo di tecnologico di usare questo tipo di contenuti rispetto a prima dove tu avevi il file sharing, avevi comunque c'era un momento in cui tu sceglievi la musica da scaricarti e lo facevi te, non è che c'era qualcuno che te la consigliava, sì magari c'era qualcuno che te la consigliava e non necessariamente era un tuo amico, magari era la televisione o era la radio o era la moda del momento, però in ogni caso eri tu che attivamente dicevi va bene adesso mi vado a cercare il disco di Madonna, me lo scarico e me lo sento, me lo metto via e se poi tra un mese mi fa schifo perché mi è venuta noia lo cancello magari. Cioè era abbastanza difficile che così inavvertitamente apparisse da sola una compilation nella tua libreria, ecco. Infatti. E poi non era neanche che sparisse, peraltro. Cioè se un contenuto io lo voglio avere per sempre, cioè un file, un disco di un gruppo che mi piace molto, la discografia intera di un gruppo magari, io me la voglio sentire all'infinito. Per esempio, cosa che ora è molto cambiata, prima non era necessario che fossi sempre costantemente online per ascoltarla. Io ce l'avevo sul mio hard disk e potevo scegliere che quel giorno me l'ascoltavo tutto il giorno e poi il giorno dopo la ritrovavo lo stesso e non dovevo essere connessa costantemente. Cosa che invece adesso è, perché tendenzialmente l'uso adesso della musica passa molto molto molto molto molto spesso da piattaforme commerciali come YouTube e quindi tu non solo il file non te lo sei scaricato e non ce l'hai sul tuo hard disk e non lo puoi trovare quando lo vuoi, ma devi essere sempre connesso per poterlo avere. E anche per poterlo trovare, tant'è che poi spesso ci sono tutti quei meccanismi, che ora poi parleremo per ore, però che te lo suggeriscono, cioè, e non è più neanche necessario ricordarsi il nome del gruppo, perché tanto lo sa YouTube come si chiama il gruppo. Questa cosa, secondo me, poi magari ci addentriamo troppo, ma secondo me è devastante, perché in realtà tu di fatto se vai a chiedere a persone che usano abitualmente solo YouTube per ascoltare la musica, non si ricordano il nome di un gruppo. Ora io faccio schifo perché anche io non me li ricordo i miei gruppi, ma no a questo livello, cioè no che proprio non si ricordano i nomi dei gruppi, non si ricordano i nomi delle canzoni. Questa può sembrare una cosa stupida, ma in realtà secondo me ha modificato molto l'approccio e il modo con cui tu ascolti la musica e anche il valore che gli dai. È tutto secondo me un po' effimero e un po' mordi e fuggi. Quindi anche la musica mi viene suggerita da YouTube, io l'ascolto, bella storia, mi è piaciuto un sacco. Non mi ricordo niente, stessa cosa poi con la serie, con il film, quant'altro, perché generalmente si ha una fruizione appunto molto più... Sì, poi ti distrai un attimo, parte il brano dopo e poi parte il brano dopo e così via. Essenzialmente sì, diventa molto difficile anche rendersi conto del passaggio da un brano a un altro, da un artista a un altro, non c'è però più coscienza. Questa cosa non pertiene a un campo di semplificazione? Sì. Me la butto lì. Cioè nel senso che ad esempio io Spotify, cioè alla fine è una roba moderna, no? Però tipo se io voglio ascoltare la radio, io non scelgo la musica che mi fa ascoltare la radio. Forse mi piace proprio perché è qualcun altro che seleziona la musica per me. È vero. Ma infatti secondo me una piattaforma come YouTube assomiglia molto di più alla televisione o alla radio, appunto. Ora però, attenzione, la radio, tu puoi scegliere un sacco di radio, cioè generalmente tu scegli una stazione radiofonica perché ti piace quello stile, quel tipo di programmi. Sì, cioè per me, secondo me è quasi inverso, nel senso nella radio sei tu che scegli la radio e sei tu che ti diciamo trovi la radio adatta alla tua musica eccetera e poi lei si occupa di mandarti la canzone dentro quel determinato diciamo genere e invece YouTube è lui che ti sceglie, nel senso che tu guardi o comunque ascolti un tot di musica e lui che si propone di mandarti della musica simile a quella, che secondo me sono due cose un po' diverse. In una scegli tu, nell'altra lui si adatta a te. Sì, e poi non hai, è molto individuale la cosa, nel senso che YouTube ha la pretesa di capire e di sapere meglio di me che tipo di musica mi piace, cosa che tendenzialmente una radio non fa, se per quanto sia commerciale, per quanto sia alla moda, però tende anzi a omologare, cioè non che YouTube non lo faccia, però tendenzialmente i contenuti che ti spingerà sono sempre gli stessi e sei tu che ti devi in qualche modo adattare. YouTube, secondo me, fa una cosa più subdola, che non è diversa. Poi alla fine della fiera fa la stessa cosa, perché ti costringe ad adattarti ai gusti di tutti, diciamo, della maggior parte delle persone, della maggioranza. Però invece ti fa non te lo dice apertamente, e anzi al contrario ti fa credere che YouTube è molto personalizzato su di te, cioè che quindi quelli non sono i gusti della maggioranza, sono proprio i tuoi di gusti. Questa cosa è subdola, secondo me, perché poi in realtà una persona ha l'impressione di avere un ascolto musicale molto raffinato e molto preciso, molto tarato su di sé, quando invece è l'esatto opposto, perché in realtà non lo è. Ma tu dici? Perché, cioè, secondo me la moltiplicazione dei mercati, cioè tante teste diverse, in qualche modo vogliono dire per il... come si sviluppa il capitalismo moderno, tanti mercati diversi. Cioè, io non sono sicuro che YouTube voglia la mia omologazione. Secondo me, anzi, è contento se ci sono tanti piccole nicchie, micro nicchie di gente stramba che ascolta la propria musica stramba, perché per loro è moltiplicare la possibilità di ampliare il mercato. Questo, secondo me, succedeva anche nella... Cioè, non è che non succede nella radio o non succede nella televisione. Cioè, le nicchie di mercato, secondo me, sono qualcosa che sono sempre esistite e che continuerà a esistere, e che è chiaro che tutte le ricercano. Però è come, non so, come dire, è un po' l'eccezione che conferma la regola. Cioè, di fatto si tende all'omologazione, ma all'interno dell'omologazione, se c'è una nicchia che si sente di essere invece diversa dagli altri... Questo comunque riesco a sussumerlo e a farlo mio e a rigirarmelo in modo che comunque ci faccia soldi uguale. Certo, sì, però non è detto che spingano per forza per omologare. Vabbè, è un'omologazione più larga, però comunque resta, deve rimanere all'interno della loro piattaforma, quindi comunque il concetto... Diciamo sì, simile. E devi avere l'impressione che comunque puoi trovarci di tutto, cosa che peraltro è, perché è vero, e che i contenuti ce li metti te, e che hai modo di emergere molto bene, di far emergere molto bene i tuoi contenuti, cosa che però in realtà sappiamo benissimo che non è vero, perché in realtà o tu sai fare una ricerca bene su YouTube, o altrimenti non la trovi la cosa che cercavi, perché realisticamente non pensiamo magari a persone che hanno dei gusti musicali magari precisi, però persone che magari non hanno, ad esempio, dei gusti musicali non ancora formati benissimo, mi viene da pensare i ragazzini molto piccoli magari, che ancora non hanno una cultura musicale, per cui se gli chiedi che musica ti piace non lo sanno banalmente, perché magari hanno ascoltata poca su YouTube, non sanno che cercare, quindi bevono tutto quello che gli viene dato. Anche perché si presuppone, se sai cosa cercare, vuol dire che bene o male probabilmente hai una collezione di roba tua privata, e comunque già ascolti e comunque già hai una certa cultura musicale, quindi si prevede che tu usi YouTube, diciamo, parzialmente per ampliare o comunque per ascoltare qualcosa che non hai tu, però tendenzialmente sei già una persona formata. Sì, poi non lo so, io ora ci siamo buttati su YouTube, in realtà quella... Parliamo di Netflix. Esatto, la cosa potrebbe anche tranquillamente estendersi a Netflix o a... Ma secondo voi, tipo Netflix, quanto pesa nella mia scelta di fare l'abbonamento il fatto che il file sharing è scomodo? Cioè, nel senso, se io mi scarico tutte queste cose, prima me le devo scaricare, le devo tenere ordinate, poi perdo l'hard disk, mi si rompe... Cioè, quanto pesa il fatto invece io voglio solo vederla, la voglio meramente consumare, come la televisione. E quindi che mi frega di scaricarla e sbattermi e devo aspettare mezz'ora? Io lo accendo, vedo la mia serie del cazzo, poi può anche rimanere lì, tanto non è che la voglio rivedere. Poi del cazzo. Sì, ma poi no. Cioè, ma poi ora, cioè, nel senso, no, era per capire, cioè, nel senso che noi abbiamo detto è perché le cose sono diffuse, però sembra che le cose altrimenti si sono diffuse perché c'è questo, c'è il grande fratello, no, che ci, però in realtà non c'è che ci impongono un cazzo, no, di anche questa perché roba. Cioè, evidentemente ci sono dei meccanismi per cui queste cose tutta la gente è scema, no, o se no ci deve essere un appiglio sul quale loro hanno fatto leva per sfondare. No, sono estremamente comodi effettivamente e comunque spingono magari anche nel rendere scomodi gli altri. Beh, uh-huh. Sì, è vero, la cosa va di pari passo, o almeno a darti questa impressione, perché poi il fatto di comodo, è il concetto di comodità è una cosa che insomma si vendono dagli anni 50 ed è sempre un po' opinabile se poi ci vai a fare caso, no? Cioè quello che ti viene venduto come comodo poi se vai a vedere magari non lo è, o è comodo per un verso e scomodo per un altro. E cioè, per esempio, il fatto di doversi guardare la serie, ma se la voglio rivedere, magari questo è più complicato, me la rende scomodo. Cioè, dipende che tipo di uso devi fare di quella cosa. Se tu hai un uso che è esattamente quello per cui è stata pensata, allora è comodo, sì, lo è. Ma tra l'altro, senza neanche arrivare al Netflix, cioè in realtà ora abbiamo parlato di Netflix, però la maggior parte delle persone penso che più che usare Netflix usi in generale lo streaming, quindi sia un tipo di fruizione anche dei film, vengono scaricati magari meno film, e i film vengono invece guardati in streaming, perché molto spesso questa cosa è comoda. Se poi però in realtà vai a guardare con le connessioni che ormai abbiamo in casa praticamente tutti, almeno in Occidente, almeno in Italia per esempio, che sono delle connessioni abbastanza veloci ormai, insomma sì, è vero che guardarsi un film in streaming ci vuole molto poco, cioè è facile, ma non è che invece scaricarselo, cioè non è mica come prima, che effettivamente scaricarsi un film prima era... proprio lo volevi, cioè ti doveva proprio piacere quel film, anche perché poi spesso te magari perdevi una settimana a scaricarlo e poi era un porno e tu volevi vedere magari invece un'altra cosa. C'è l'anteprima però. Quella l'hanno inventata dopo e comunque non sempre funzionava. E poi comunque, cioè te magari sì, a metà della settimana ti accorgevi che dall'anteprima che era il film sbagliato e ci rimanevi male e poi insomma non poi era comodo. Era un bel porno. Ma magari te volevi vedere un'altra cosa, cioè era brutto. E quindi invece, secondo me, questa cosa qua, insomma, anche sulla comodità, boh, parliamone, perché adesso scaricarsi in film, in teoria, cioè, non se, ma anche in pratica, non è veramente così difficile come lo era prima, quindi più o meno siamo lì. C'è un po' questo concetto che si spingono, che i file sono un qualcosa di effimero, di... Che non lo vedi, non lo tocchi e che deve stare generalmente poi se sta sul cloud, che sappiamo tutti essere questa specie di nuvola immateriale dove ci sono gli unicorni e tutto il mondo, il tempo si ferma e tutto qua è fatta, vivono i file, sì, c'è fatta di zucchero filato, dove non c'è niente di così, non lo so, borghese o brutto come i soldi, le cose sporche, no, lì è tutto bello. Ecco, lì effettivamente, cioè, se tu pensi che tutto non ti devi più scaricare quel brutto file sporco sul tuo computer, ma invece sta tutto là su questo mondo degli unicorni, allora sì, certo, ti appare tutto molto comodo, tutto bello, insomma, però è un concetto che si invece spinge. Parliamo di questo articolo che abbiamo trovato, che dice una cosa che è in controtendenza con quanto abbiamo detto finora. Cioè, pare, secondo un articolo citato da, cioè una ricerca citata da Rumore in un articolo di maggio del 2018, che però fa riferimento a uno studio che si basa sui dati del 2017, che in realtà lo streaming non abbia soppiantato il file sharing, ma che la moltiplicazione delle piattaforme di streaming abbiano sostanzialmente in qualche modo confuso l'utente, che ora, essendo che sono troppe per vedere tutte le cose, tipo uno non è che si fa l'abbonamento a tutto, a Netflix, a HBO, a tutte cose, no? E quindi uno ne sceglie di solito una e tutte le altre cose che vorrebbe vedere le scarica. E quindi torna di nuovo il file sharing o lo streaming pirata. È interessante di questo articolo, secondo me, la conclusione, che sostanzialmente dice che è importante per le aziende capire il profilo di questi consumatori di pirateria, allo scopo di avere uno sguardo di insieme e monetizzare quel tipo di pubblico. E quindi probabilmente quando sono state ideate le piattaforme di successo, loro avranno fatto un percorso identico, cioè avranno preso quello che era, diciamo, il panorama del file sharing degli anni di cui noi stiamo parlando con nostalgia, e avranno fatto uno studio e avranno detto: ok, ma cosa funziona di questo roba? Cioè, a cosa interessa alla gente? A posto, glielo diamo noi per quattro soldi. Sì. Quindi era per poi riallacciarsi alla cosa delle ricette. In realtà, però, se io mi dovessi fare la domanda, quindi io cosa ti propongo? Cioè, se io, cioè noi, insomma, se io non ti posso proporre un mondo più comodo di così, cioè devo puntare su qualcos'altro. Sì, comunque, cioè, diciamo che molto si sposta anche sull'abbandono del supporto, perché comunque mettiamo che ci sia una specie di torrent a pagamento. Se c'è un torrent a pagamento, effettivamente nel momento in cui io comunque ho scaricato il file, posso comunque poi magari ricondividerlo creando qualcosa di parallelo non a pagamento. Se io invece, ad esempio, attraverso lo stream o appunto piattaforme streaming, quindi Netflix o Spotify per la musica, io effettivamente non avendo il file non posso ricondividerlo. Quindi elimino proprio la possibilità anche di uno sharing direttamente del file stesso. Ma supponiamo, tipo noi prima si stava cercando delle informazioni su come scaricare i file da Netflix, no? In realtà c'era un articolo che diceva che nel 2020, cioè adesso quest'anno, insomma, Netflix sta pensando, su pressione degli utenti, di fare scaricare i file, i video, in modo che uno li possa vedere anche offline, sui propri cellulari. Ora, non so se questa cosa esiste già, perché non ce l'ho questo oggetto, no? Però poniamo che uno futuro, in qualche modo, fascia di mercato si apra per questo tipo di utilizzo, cioè che loro in qualche modo lo usino come una feature perché la gente possa scegliere Netflix, no? Perché altrimenti io me ne scelgo un altro, no? E loro mi devono dare qualcosa in più, loro mi danno la comodità di scaricare. A quel punto io avrei di nuovo la possibilità di ricondividere le cose, cioè poniamo anche che ci sia sopra un DRM, sì. No, però se io tolgo il DRM e poi a quel punto, cioè, posso ricondividere le cose. Certo. E quindi il nostro mondo è fluido. Ma volete per caso spiegare cosa sono i DRM? Sì, però prima di spiegare cosa sono i DRM, secondo me comunque questa cosa è effettivamente ci ha molto stupito quando l'abbiamo letta un po' tutti questi articoli. Tra l'altro, oltre all'articolo di Rumore, abbiamo trovato un articolo che parlava delle stesse cose su Vice, e che era spiegato un po' più nel dettaglio, e c'era questo rapporto poi che statistico, e poi sinceramente tutte queste statistiche andrebbero un po' lette nel dettaglio per capire veramente come sono state fatte. Io non ci poi... credo. Infatti in realtà cioè quello che ci dicevamo era che ma sarà veramente così, cioè nel senso che ci ha stupito questo dato, che ad esempio quella che loro chiamano la pirateria è cresciuta del 14% nel 2017. Innanzitutto bisognerebbe capire che cosa vuol dire pirateria, cioè di che file stiamo parlando, perché insomma non tutto è uguale. Ma loro intendevano quella in mare. Quella in mare forse è vero anche. Vabbè, e poi bisognerebbe anche capire in quali paesi, e se queste statistiche comprendono più paesi, se sono state pesate bene, insomma la percentuale di, che ne so, di abitanti che ha un paese piuttosto che un altro, perché molto spesso queste, per esempio, queste statistiche parlano degli Stati Uniti, e però gli Stati Uniti insomma non è che proprio su tutto il mondo, anche se insomma ci provano a farcelo, però nell'articolo si diceva che gli USA sono davanti a tutti con tipo 27,9 miliardi di visite a siti musicali illegali. Poi segue la Russia con 20,6 miliardi, poi il Brasile con 12,7 miliardi e la Turchia con 11,9 miliardi. Però si sono dimenticati la Cina. E poi non e poi su Vice oppure per sta esempio sotto nella classifica e non ci siamo neanche noi. Sì, su, strano perché mi sembra un po' improbabile, francamente. Ci sa come mai? Perché siamo pochi. No, noi ok, ma la Cina. La Cina so tanti. Non so, eh. Cioè, secondo me, insomma, sono cose un po' particolari e andrebbero un po' viste. No, non perché voglio mettere in discussione questa statistica, però ecco, non mi fiderei neanche troppo. Però parliamo dei DRM. Via, parliamo dei DRM. Così poi facciamo sentire un pezzo musicale. I DRM sostanzialmente sono la soluzione architettata per evitare questa cosa, che altrimenti secondo me accadrebbe in maniera più semplice. Cioè il fatto che tu hai una roba che è in cloud non significa che tu poi non puoi desiderare di averla anche a casa tua. E dovrebbe essere tutto più semplice, perché ce l'hai nel cloud, dici perché non la posso avere anche semplicemente a casa mia? E questo però sarebbe scomodo per le aziende, no? Perché io mi sono sbattuto a farti sto cloud, cioè ti ho chiesto dei soldi, se poi alla fine tu ti pigli la risorsa e la passi a tutti i tuoi amici, siamo tornati da capo, siamo tornati alla cassettina. E allora io di nuovo c'ho il mercato che mi frutta molto meno di quello che potrebbe. Allora si sono inventati sostanzialmente delle protezioni software, che sono una delle tante applicazioni dei meccanismi crittografici alla fine, che permettono in qualche modo di firmare una certa cosa in modo che possa essere letta solo da un certo lettore. Il caso quello che conosco meglio io, quindi parlerò un pochino di questo, magari, sono i DRM di Amazon. Cioè Amazon, quando ti vende gli ebook, che sembrerebbero essere delle cose convenienti alcune volte più dei libri stampati, sembrerebbero, nel senso che poi se guardi all'usato spesso trovi in realtà il libro costa meno dell'ebook, però diciamo per quella letteratura un po' di fascia non alta ma diciamo di fascia tecnica mirata, spesso effettivamente, che ne so, un manuale ti costa $80, l'ebook ti costa 25. Allora uno dice vabbè, compro l'ebook e cosa si ritrova? Si trova essenzialmente per aver pagato una roba che poi legge come se Amazon gliel'avesse imprestata, perché questo ebook sta sostanzialmente nel cloud di Amazon, che loro te lo danno come una roba comoda, no? Nel senso che tu ti ritrovi le tue cose su tutti i tuoi cosi che leggono robe di Amazon, quindi se ti installi, che ne so, il lettore di Kindle sul computer te lo ritrovi poi, però io il lettore ce l'ho sul computer, no? Cioè perché devo essere collegato a internet e pigliarmi il coso dal cloud? Cioè è comodo, sì, perché vai in giro e te lo ritrovi sempre, ma se io internet non ce l'ho, sparisce? No, non sparisce perché non potevano fare questa cosa, sarebbe stata troppo una truffa. Quindi loro spingono comunque, per cui se quella cosa viene eliminata dal cloud, poi a un certo punto, quando tu colleghi il tuo apparecchietto, il tuo lettore, diciamo il tuo ebook reader o il tuo software, no, collegare, lui si sinca. Quindi se lo cancelli dal cloud, se poi ti colleghi a internet sparisce. Però in realtà, se te ce l'avevi nel cloud, nel momento in cui tu ti stacchi da internet, una copia rimane lì, protetta però dal DRM, quindi tu la potresti leggere comunque solo con il tuo lettore Kindle. Però il DRM che cos'è? È soltanto una cosa che sostanzialmente l'intelletto umano ha concepito, e quindi un altro intelletto umano la può smontare. E quindi nel momento in cui si studia come è fatto il DRM, perché questi cavolo di software, no, comunque nel momento in cui leggono il DRM e lo faranno in qualche modo, quindi se io tutte queste cose ce l'ho sotto mano e sono sufficientemente capace, posso studiare come fa e poi dire ok, allora io faccio il DRM. Cioè tu lo fai in un modo e io fo il contrario e lo tolgo. A quel punto il tuo libro è tornato un libro, cioè di nuovo tuo. Quindi tu li puoi ad esempio convertire in un altro formato, senza il DRM. E a questo punto posso fare, come nella migliore tradizione dell'umanità, imprestare il mio libro a qualcun altro. Perché l'ho preso, è mio, cioè te l'ho dato anche i soldi e poi lo voglio anche imprestare al mio amico. Esatto. E quindi sostanzialmente questa roba dei DRM, che poi è su vari formati, non è super vincente, un po' perché è un espediente che si può aggirare e poi perché spesso rende comunque la fruizione scomoda all'utente. Tipo mi sembra iTunes aveva messo i DRM inizialmente alla musica, a un certo punto ha tolto i DRM perché finiva che tu li potevi leggere soltanto con le cose della Apple, E però non tutti hanno i cosi della Apple, e quindi alla fine aveva chiuso il suo mercato lì, che era una specie di scommessa, cioè vediamo se sfondiamo talmente tanto che la gente poi c'ha tutti i nostri lettori. Evidentemente non è andata così, e per far sopravvivere la piattaforma una certa hanno tolto i DRM, per cui adesso te ti scarichi l'MP3, effettivamente c'è un MP3 e non l'MP3 col DRM. Quindi tendenzialmente diciamo sono... Non lo so, questi sono i DRM e sono una delle trovate del mercato che dovrebbero servire a in qualche modo blindare la proprietà di quell'oggetto. Quanto ci riescono è poco, appunto. È interessante come comunque poi il mercato si inventi delle risposte, cioè che vede se non va, allora riprovi in un altro modo. Anche quell'articolo di Rumore che magari dice le statistiche a cazzo e non è interessante, però comunque è interessante nella frase finale, cioè diciamo, ti studio per capire come comunque riuscire a monetizzarti. E questa cosa è complessa, secondo me, da scardinare. È complessa perché rappresenta un po' il paradigma di come funziona cioè il capitalismo moderno, no? Che spesso cose che per noi magari erano battaglie per il capitale diventano lo spunto per inventarsi una roba che su quella battaglia si inserisce e dice boh, io però l'ho svoltato in una maniera diversa e ci ho fatto i soldi. E intervenite su questo. Ci siamo depressi ora. No, secondo me ora abbiamo chiacchierato una cosa depressa, ho detto i DRM li possiamo togliere. È vero. No, adesso secondo me però abbiamo chiacchierato tantissimo e potremmo mettere un po' di musica, che ne dite? No. Io non c'ho più voce, quindi sono contento. Mettite la musica allora di uno che invece c'ha un sacco di voce. Allora mettiamo Screaming Jay Hawkins e addirittura il pezzo, attenzione come si intitola, I Hear Voices, che più o meno è quello che faccio io tutti i giorni. Rieccoci, abbiamo fatto... Urlava un sacco, sì, infatti non ci si capiva, anche qua siamo talmente tanti, tra lui che urla, questi qua che fanno un casino, che non si capisce niente. Comunque, ce la faremo lo stesso. Dicevi che tu volevi fare un appunto su non volevo fare una questione di materialità del digitale. Sì, cioè volevo aggiungere un pezzetto, perché quando tu parlavi del fatto che bisogna essere sempre connessi, chiaramente, per potersi leggere il proprio ebook, o comunque che di fatto viene incoraggiato sempre di più lo stare costantemente online, questo sembra anche qui di nuovo un fattore che solo di comodità, no? Cioè vabbè, ma ecco, tanto alla fine ormai siamo sempre tutti online, ma che ti frega, no? C'hai sempre lo smartphone con te, quindi sei sempre online, e quindi alla fine, ma che costa guardarlo in streaming o vedere online, leggere online il libro? Cioè tanto, no? È tutto lì sullo zucchero filato nel cloud, l'internet ce l'hanno tutti, bella storia. In realtà l'internet, detta così, sembra quasi che sia gratis, ma gratis non lo è assolutamente, ma non solo in termini economici di quanto paghiamo noi un contratto a un'azienda telefonica, ma in termini di che tenere in piedi tutta la baracca internet è una roba che ha un costo di vite, di un costo ecologico che si sta riversando sul pianeta, perché di fatto è abbastanza evidente che sia il business del secolo, se non forse del millennio. E quindi se prima non so, a nessuno sarebbe mai venuto in mente che alimentare a vapore una locomotiva era gratis, anche adesso alimentare un cloud non è affatto gratis, e così come produrre i nostri fantastici aggeggi tipo smartphone eccetera, che comunque sono molto materiali e molto poco immateriali, cioè anche quello non è gratis, eppure, cioè quella è una parte che si ignora sempre, cerchiamo di mettere sotto il tappeto e far finta, quindi in realtà... Anzi, cioè sembra che le cose smart sono quelle, dal punto di vista ecologico, le scelte del futuro, no? Esatto, sì, in questo buffo ribaltamento. Che guideranno la green economy. Sì, questa cosa è bellissima, cioè sembra che se te parli del digitale stai parlando di una cosa in automatico ecologica. Perché? Perché non stai tagliando gli alberi. Ma magari stai devastando un intero continente con industrie minerarie che devastano tutto, con uno sfruttamento della popolazione che genera guerre su guerre su guerre. Vabbè, no, banalmente, eccetera, anche solo eccetera. L'energia elettrica comunque non è gratis, non la produciamo da niente, e comunque la produzione dell'energia elettrica è una grossa componente delle nostre emissioni. Cioè è chiaro che se noi concepiamo il mondo con un consumo energetico così elevato, essenzialmente per soddisfare la nostra pigrizia e la nostra voglia di cose facili e comode, abbiamo fatto una scelta precisa, che poi è difficile revertare, come si dice quando uno torna indietro. E non è reversibile. Non grazie, è reversibile. Esatto, non è reversibile, è difficilmente reversibile. E poi Greta? Greta piange sangue. Cioè... No, ti viene a cercare a casa. Ah sì, sì, col mattarello, sì, sì. No, e fa bene, anche perché poi, insomma, appunto, io butto lì, però, insomma, fare grandi battaglie sulle missioni e poi stare costantemente attaccati a internet col proprio smartphone senza minimamente chiedersi cosa questo voglia dire, insomma, è un po', quantomeno, un paradosso. Beh, però lo smartphone, lo vedo, non fa fumo, no? No, è vero, non ha emissioni, non zero produce, emissioni, non zero emissioni. Se la batteria prende fuoco, sì. Se prende fuoco, ogni tanto se gli succede. Dai fuoco. Sì, anche se lo spacchi con un martello poi produce delle scorie. Polveri sottili. Sporca anche. No, a questo proposito c'è un interessante ciclo di puntate della nostra trasmissione gemellina, una delle nostre trasmissioni gemellina, Le dita nella presa, su Radio Onda Rossa, che parla proprio della materialità del digitale e che affronta quindi un po' tutti questi temi e racconta di come poi di immateriale nei nostri aggeggi tecnologici c'è veramente poco, quindi vi invito a dargli un'occhiata, a ascoltarvela, è piuttosto interessante. Quindi chiudiamo il nostro svarione teorico. Chiacchiere, la parte di chiacchiere. Le chiacchiere. Ora invece inizia questo... Le chiacchiere. Le chiacchere. Ci picchia. E iniziano le chiacchiere, però queste più legate ai nostri consigli sul file sharing. come doverosa, secondo me, premessa, che era quello che avevo provato a dire prima, su cui voi non sarete d'accordo, e che però appunto noi, non potendo proporre una vita più comoda di così, necessariamente dobbiamo fare leva su qualcos'altro, che è essenzialmente imparate a amare la scomodità. Ah no, io sono d'accordo, figurati. A me piace. Cioè, è l'unica cassette. Soluzione, se no non sappiamo cosa dire. Cioè, se no vincono per forza loro. Cioè, se da noi pretendete che vi diamo soluzioni ancora più facili di Netflix, non c'è. Cioè, se vuoi quella roba lì, pigliati quella lì. Se vieni con noi, impara che siamo. Siamo un lato scuro, siamo tendenzialmente più poveri, sarà tutto più difficile. Ma più eleganti. E abbiamo più roba. Questo non lo so neanche io. Però siamo più eleganti, abbiamo penso più stile. Che abbiamo più roba cozza con i siamo poveri. Ma è roba, è cultura. La cultura non facciamo soldi. No, ma noi abbiamo la simpatia, abbiamo queste cose. Poi anche la cultura, sì, forse, non lo so. No, comunque la scelta che vi proponiamo è una scelta difficile. Di questa cosa ve ne dovete fare carico in qualche modo. Cioè, noi che la proponiamo e voi che decidete coscientemente di accettare questa cosa. Ma sì, anche cioè, perché non siamo qua per offrire facili soluzioni. Anche non coscientemente. Sangue, sudore e lacrime. Bene, a noi. No, anche perché comunque, cioè, in generale il mondo dell'autogestione, direi che è un mondo che spesso raccontiamo e dal quale veniamo, ecco, e tutto è fuorché comodo e facile, mi viene da dire, perché proprio, cioè, lo dicono le nostre, insomma, ora che abbiamo fatto questa premessa solo dovuta al fatto che appunto tutte le cose che spieghiamo sono difficili e quindi mettevamo le mani avanti, possiamo secondo me procedere. Sì, abbiamo un po' di ricettine che volevamo condividere con voi, che però sono delle ricettine, come dire, non andremo tanto nel tecnico e daremo un po' per scontati forse dei passaggi, però sono un po' dei tip and tricks, cioè dei trucchetti, di cui alcuni sono veramente, non sono manco trucchi, sono cose ovvie, e alcune sono cose che probabilmente chi ci ascolta conosce meglio di noi. E quindi senza pretese di insegnare chissà cosa a nessuno, però sono alcune cose che ci sono venute in mente quando abbiamo parlato di questo argomento tra di noi e ci siamo detti: vabbè, ma noi cosa usiamo? Cioè, ok, non vogliamo guardare i film in streaming, perché poi Greta ci viene a prendere a casa, non vogliamo, cioè vogliamo poter scaricare la musica per passarcela e farci le nostre collezioni, eccetera. Benissimo, e cosa usiamo per farlo? E allora abbiamo, ci siamo insomma consigliati un po' a vicenda un po' di strumenti, un po' di trucchi. Io mi butto lì il primo, così poi voi fate il resto e vi frego in questa maniera subdola, che è il più facile, ovvero scegliere già da subito in partenza dei contenuti liberi, già da subito. Così si taglia la testa al topo. Cioè, praticamente, non invece di andare a ascoltare il disco di Madonna, che diciamocelo, ma quant'è che Madonna non pubblica una cosa interessante? Cioè, so anni, quindi basta anche. Direttamente andiamo ad ascoltarci, a scaricare delle cose che sono già, nascono già come libere, come no copyright, per varie ragioni, perché sono state prodotte, appunto, come dicevo all'inizio, con licenze libere, quindi Creative Commons, o direttamente no copyright, oppure perché sono public domain, anche in alcuni casi perché i diritti sono scaduti, perché sono contenuti magari vecchi, perché il copyright ce ne mette a scadere, però a una certa scade, e quando è morto anche l'ultimo degli eredi, e il cane, il gatto, e il figlio del gatto, e tutto quanto, allora, bontà divina, possiamo scambiarci finalmente queste cose. Cioè, insomma, la roba degli Egizi, praticamente. Sì, esatto. No, in realtà no, ci sono delle cose molto interessanti di film anche che sono sfuggite al copyright per questioni di errori quando sono stati registrati, cioè cose, insomma, che uno non si aspetterebbe. Film di Romero che possiamo liberamente scaricarci tutti perché hanno fatto una cazzata quando hanno registrato i diritti, e vabbè. E quindi vi volevo segnalare un po' di siti con contenuti di siti o non di contenuti che già nascono liberi. per esempio archive.org, che è un sito che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat conoscono bene, perché è un archivio sul quale noi appoggiamo i nostri file podcast delle nostre trasmissioni. Quindi già quando voi cliccate sul il podcast, sul player, dentro il sito che vi ricordo essere wombat.noblogs.org, già lì state prendendo il contenuto da archive.org, che è un archive scritto, perché lo so, mi stai guardando strano. archive.org, che è un sito dove si trovano appunto questo un'immane collezione di file di vario tipo, musicali, film, tra cui siccome veramente è una mole di dati immensa, ci sono delle collezioni e potete divertirvi a guardare alcuni. Per esempio, ci sono delle collezioni infinite di film muti. Si trova tutti i film di Buster Keaton, Felix il Gatto, tutta sta roba qua che magari a voi non, ma a me piace tantissimo. Dalla regia mi dicono che il copyright scade dopo 70 anni. Davvero? E guarda, sei sicuro? Stiamo facendo gaffe. No, sì. Sembrerebbe. Hanno cambiato nel 2014, prima era 50. Ok. Quindi sembrerebbe. E non c'è questione di eredi menate? No. Sembrerebbe da 70 anni dalla morte dell'autore. Quindi, ok. E dai, quindi si parla del diritto in Italia comunque. In Italia, sì. Però 70 anni più la vita dell'autore, quindi... Ah, cioè, oddio. Sono tanti. Sì, sono tantissimi, però voglio dire, siamo nel 2020, inizia a trovarsi roba... Non siamo la proprio gli egizi. La sciarpina di Tutankhamon. No, dai, se è più roba. oppure, per esempio, ci sono un sacco, sempre su Archive, di live... Live di concerti musicali che sono stati rilasciati free, così ce ne sono tantissimi, o semplicemente di gente che rilascia la sua musica sui film, ma ce n'è veramente un'infinità. Andate a vedere, e si può tutto scaricare in vari formati, tra cui anche formati ad alta risoluzione, quindi insomma è anche, anche utile per se vi serve di proiettarli, appunto di condividerli con altri. Poi un altro sito molto interessante che vi consiglio è publicdomainreview.org, che è un sito che è una sorta di rivista, diciamo così, che non mi ricordo se ogni giorno, ogni settimana, comunque con una cadenza periodica, propone delle collezioni di più che altro arte, ma non solo, libere dal copyright, quindi di pubblico dominio, e quindi potete trovare tantissime cose di pittori, scultori, vecchi manoscritti del 500, del 300, però siccome ora uno non è che poi magari... È un interesse di tipo un po' magari più storico, se non sei proprio, ecco, un nerd come me, per esempio, forse magari non ti interessa o hai difficoltà a districarti. Loro fanno una cernita, ti propongono per esempio una serie di cose interessanti, una serie di manoscritti particolarmente curiosi che ti fanno vedere. Per esempio, avevamo scoperto questo sito qui con Radio Wombat, perché attraverso Public Domain Review ci avevano proposto questo articolo che raccontava della passione dei preraffaelliti per il Wombat. E quindi c'erano tutti i quadri, i disegni dei preraffaelliti che raffiguravano Wombat, che tu ti puoi scaricare in formato gigante, e tutto ciò è molto molto bello. Altri due siti che vi consiglio sono, non sito questa volta, sono... Cioè siamo arrivati ai preraffaelliti. Capito? Per toglierci il copyright. Sì. Preraffaelliti, voglio vedere se qualcuno viene a reclamare. È più di 70 anni che sono morti. Anche secondo me, purtroppo, però sì. No, l'altra risorsa che vi volevo buttare lì, che è Borderline. E su Mastodon Bida c'è un come si dice quando io non sono pratica di Mastodon, come si dice, non è un account, non è un uno che sta su Mastodon, come si dice, un canale, un account, uno no, che mette contenuti su Mastodon. Io direi account nel dubbio. Un account che si chiama Lemaki Bla Digitalizzata, che condivide ebook di vario genere, molte cose di ambito libertario anarchico o comunque politico, ma non solo. E ma sono libri legali o illegali? Questi è un po' borderline. Ah, ok. Sono libri un po' legale. Diciamo che prendono dei libri che il cui interesse riconoscono e li danno al popolo. Quindi fanno un'operazione veramente importante, specialmente nel momento in cui spesso anche il mondo libertario sembra essere molto legato e attaccato a questa questione del copyright in maniera paradossale. E quindi grandi compagni delle macchine. Anche secondo me, infatti, è giustissima questa osservazione. Altri due siti che forse interessano solo a me, ma magari sparsi nell'etere ci sarà qualcuno a cui interessa questa cosa, sono due siti che condividono spartiti liberi, spartiti di musica. Ora, soprattutto spartiti di musica anche antica, musica classica generalmente e musica antica, che può sembrare una cosa ovvia, però non lo è, perché in realtà pure lì ci mettono il copyright, perché comunque la trascrizione di uno spartito del 1600, se è stato stampato, che ne so, dalla Ricordi, che magari l'ha stampato pure male con gli errori, comunque tu lo devi pagare. Il copyright è sugli errori. esatto, a me ci fosse scritto che c'è gli errori, invece no. E quindi ci sono due siti che condividono trascrizioni di spartiti, quindi questa volta parliamo di una cosa espressamente libera già in partenza e quindi perfettamente legale, nessuno ci può dire niente. E i due siti sono mutopiaproject.org e l'altro è musopen.org e si trovano un sacco di cose e a me mi è sembrata una cosa ottima, perché a me mi hanno fatto storie perfino in copisteria, perché provavo a fotocopiarmi uno spartito del 1600 e ho fatto un casino, devo dire, però ecco. Ma è perché era l'originale del 1600? Magari, no. No, ho provato a fargli credere che l'avevo scritto io, ma no, non ci hanno creduto. E poi abbiamo anche un'altra risorsa, che però questa qui non è farina del mio sacco e quindi ne parlerò citando brutalmente Wikipedia, perché non so bene di cosa parlo, però è Shihab, mg.shihab.ltd, anche qui siamo su borderline. Ed è un Wikipedia, in particolare, ci dice: Shihab è un archivio online gratuito la cui legalità è controversa. Già. Comunque è controversa, non è che è subito no, è controversa. Il sito contiene nel settembre 2019 oltre 76 milioni di articoli scientifici ed è stato fondato il 5 settembre 2011 da Alexandra Elbakian, che non so leggere, una sviluppatrice software e ricercatrice sulle nanotecnologie del Kazakistan. E anche qui si aprirebbe un tombino che non vogliamo aprire, però ne abbiamo già parlato, ne avete parlato in una puntata. Ne abbiamo parlato in una puntata, quindi non apriamo il tombino perché già l'abbiamo aperto. Esatto, e comunque qui si tratta... Non si riaprono i tombini chiusi. Per carità, teniamoli chiusi, e però anche qua appunto si parla di condivisione di articoli scientifici in particolare. In realtà poi le risorse a questo tipo diciamo di questa fruizione ve ne sono tantissime, a seconda degli ambiti degli interessi, secondo me ognuno sa un po' le proprie. Nel senso che appunto se andiamo nell'ambito, che ne so, ingegneristico, ci sono siti dove ci sono, andiamo nell'ambito elettrotecnica, cioè in realtà per questa cosa internet funziona ancora bene, cioè nel sapere molto specialistico tendenzialmente esiste tutto un ambito di risorse anche di qualità che non si pongono il problema della preservazione della proprietà intellettuale, ma piuttosto quella della diffusione del sapere. e quindi è difficile anche elencarle. Questo però è il migliore delle cose, cioè nel senso che il sapere viene già concepito come una roba libera e quindi ci sono persone che si occupano in qualche modo di renderlo disponibile. Se però così non è, e qui inizia tutto l'altro, diciamo, pezzo, anche sì, questo sarà poi infinito, probabilmente noi abbiamo buttato lì quattro cose veloci, non troppo complesse da illustrare probabilmente in radio, alcune sono banali, però ad esempio confrontandosi tra di noi si è venuto fuori che molto spesso le persone non le conoscono. In particolare abbiamo parlato un casino, forse troppo addirittura, di YouTube. Ok, è possibile scaricare i video da YouTube in modo che io poi me li tengo come video o come MP3? Ci sono infiniti plugin in realtà, c'è da dire. Sì. Però è anche c'è da dire che purtroppo, cioè, YouTube cambia in continuazione il sito. E quindi sì, molto spesso i plugin dopo un po' non finiscono, cioè finiscono, non funzionano non più. Non funzionano più, qualsiasi cosa usi, comunque devi stare dietro agli aggiornamenti di YouTube. E questo qui in realtà non cambia rispetto all'oggettino di cui... che volevo menzionare io. Chiaramente anche questo oggettino va aggiornato costantemente, gli aggiornamenti sono praticamente quasi quotidiani per la ragione che dicevi tu prima. Comunque, a me in realtà questo oggettino mi piace comunque, è un programma scritto in Python, multipiattaforma, si può usare su qualsiasi sistema operativo, è a linea di comando, quindi potrebbe essere ostico per qualcuno, ma in realtà è abbastanza banale, basta lanciare il comando e dargli in pasto l'URL del video, della canzone che si vuole scaricare, e viene scaricato. La cosa bella è che è un progetto rilasciato a pubblico dominio, può essere comodamente modificato e quindi in teoria riadattato. Questo programmino non scarica soltanto da YouTube, in realtà sono tantissimi effettivamente i siti da cui scarica, non li dico tutti perché sono veramente molti, però oltre a YouTube per esempio c'è anche Vimeo, che è un'altra piattaforma da cui spesso mi si dice che è un casino scaricare, a quanto sembra, e quindi anche da lì si può scaricare con questo oggetto. Volevo dire che questo YouTube DL, parliamo di YouTube DL, si può trovare spesso nei repository, per esempio di Debian c'è, però non funziona bene, in quanto l'aggiornamento dei repository ovviamente non sta dietro all'aggiornamento di YouTube e al conseguente aggiornamento del programma da parte di chi lo mantiene. E quindi il consiglio è di scaricarlo direttamente dal sito o da GitHub e aggiornare quello, che ha degli aggiornamenti quasi quotidiani. In realtà questo oggettino c'ha un sacco di cosine carine, può scaricare playlist, può organizzare i file scaricati nella maniera più completa, in realtà ha un sacco di opzioni, ma una tra queste è quella di poter aggirare in qualche modo alcuni blocchi relativi alla provenienza di chi chiede di scaricare il file, con un'opzione che ti setta un header nella richiesta HTTP che ti fa apparire, diciamo, come se tu non fossi in questo caso in Italia. Sarebbero quando YouTube vi dice quel video non è disponibile nel vostro paese. Esatto, senza bisogno di fare altri setting più complessi come può essere una VPN o qualsiasi altra cosa. Quindi in questa maniera in realtà basterebbe settare questa opzioncina di YouTube DL per poter scaricare anche dei contenuti non liberamente, che non è concesso scaricare nella nazione di provenienza. E questa mi è sembrata una cosa simpatica quantomeno. E poi nulla, probabilmente c'erano altre cose che volevo dire ma ora non me le ricordo più. Ci sono modi più semplici per scaricare di così, perché ci sono parecchi siti online a cui basta fornire l'URL. Diciamo che la scelta, questa qua YouTube DL è appunto in linea con quello che vi dicevamo prima, cioè nel senso che vi proponiamo soluzioni difficili, no, però molto versatili, nel senso che quella effettivamente è la migliore, perché è comunque uno strumento che può essere mischiato ad altri strumenti. Sì. Non so se cioè magari questa cosa è più per chi ama la linea di comando, cioè insomma quel coso nero che lampeggia, che però spesso nella trasmissione io parlo di queste cose qua, quindi ho fiducia che il nostro pubblico ami questo tipo di cose. Apprezzerà. E questo coso qua non è proprio il massimo della comodità, però lo è nel momento in cui sei un amante di questo oggetto, perché puoi espandere tantissimo, perché nella come si dice, nella filosofia quella del vecchio Unix, no? Cioè tante piccole cose messe assieme fanno il sistema operativo. Infatti, poi comunque, anche rispetto a quello che si diceva prima, vanno a questo punto anche incoraggiati, sostenuti e utilizzati proprio perché rilasciano in pubblico dominio. Cioè non soltanto si rende fruibile l'oggetto che vai a scaricare, ma utilizzi anche un utility che è essa stessa, libera e gratuita. È pure open source, quindi vedi anche il codice. Vedi il codice, non solo lo vedi, ma lo puoi eventualmente modificare, ma non, questo ovviamente non si pretende che uno per scaricare una canzone vada a modificare un codice, però c'è da dire che loro accettano, chiaramente, essendo un progetto aperto e modificabile, accettano delle richieste. Nel sito loro ti dicono non farmi richieste che infrangono il copyright, perché le scartiamo. Però implicitamente da qui si capisce che è possibile farla sta cosa. Io la butto lì. Vabbè, in qualche modo, cioè, rispetto al sito, che ne so, è comodo, a web a cui tu passi solo l'URL, però in qualche modo un progetto di questo tipo si pone anche il problema, secondo me, di essere comunque qualcosa che rimane nel tempo anche se il progetto morisse. Cioè il sito mi nasconde cosa fa, io non lo so, quindi se quelli si stancano, fine, bisogna aspettare che qualcun altro ci abbia voglia. Riprende, sì. Questi comunque ti lasciano in eredità del codice, quindi tu, se loro si stancano e tu volessi ripartire, quantomeno hai una base di partenza e su cui lavorare, e quindi tendenzialmente più il tipo di strumenti che, come dicevamo prima, piace a noi consigliare. Se no, uno, se vuole lo sgamotto anche facile, ci sono una serie di siti che praticamente ripigliano tutte le cose su YouTube e le ripropongono, però in maniera sostanzialmente con link comodi, eccetera, così, che sono Invidious e Hooktube. Sì, la cosa dei link, scusa, è importante perché conservano lo stesso finale del file che trovi su YouTube, e quindi una volta che hai trovato un link YouTube, sostituisci il primo pezzo YouTube e scrivi Invidious e hai fatto. E hanno poi un'altra serie di cose, penso graficamente guardandolo sembra che il sito sia più semplice. Quindi in qualche modo anche poi scaricare è più semplice, perché il sito è meno carico di Charpame sostanzialmente, e quindi stimo che rendano anche più semplice poi arrivare a poter avere sul proprio hard disk, veramente non doverlo andare a prendere sempre da un'altra parte, il materiale audiovisivo che desideravo. E con questo, diciamo, chiudiamo la serie. Aspetta, no, ce n'abbiamo ancora uno. No, e poi c'è il plugin Invidition, che è un plugin per Firefox che praticamente fa per te questo lavoro. Cioè tu fai una ricerca di un video su YouTube e lui, bam, già ti spara, ti manda direttamente sul link già invidiussato, cioè il link che non è su YouTube, ma ti puoi guardare il video già direttamente su l'altro canale. Su smartphone mi sembra c'è NewPipe, che comunque ti fa vedere video. Innanzitutto non sei dentro, sei diciamo su YouTube, ma sei come su un proxy, quindi se passi come da un proxy, quindi prima gli dai meno tuoi dati, e poi comunque lo puoi mettere in sottofondo, che YouTube su smartphone non si può mettere in sottofondo. È vero che se chiudi se chiudi lo schermo si spenge tutto, e quindi niente, carino, si può scaricare, bellino. Ora vogliamo attaccare, se chiudiamo la saga su YouTube, proviamo un altro strumento? Sì, io direi, scusa, poi sono sempre quella che è fan della musica. Mettiamo un altro pezzo musicale e poi diciamo le ultime ricettine, così creiamo anche un po' di suspense. Chi ci ascolta dice, ma chissà che altre ricette ci daranno dopo, no? Va bene, mettiamo un altro urlatore che però fa un pezzo struggente. Bene. Eccoci qua dopo il brano musicale che, sottolineo, questa volta stiamo ascoltando integralmente ogni brano musicale che passiamo, cioè dall'inizio alla fine, una roba inedita. Spontanea. Per questa trasmissione mi hanno costretto. Sì, abbiamo minacciato. Io sono convinto che comunque il format in questo modo sia molto meno Matrix e quindi non si rifaccia appunto un paradigma hollywoodiano vincente, anni per 90. Cui questo farà scendere di brutti i miei ascolti, però... E invece io invito gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Wombat a scriverci a posta wombat@insiberia.net e a scrivere quanto siete contenti di questa nuova scelta di Coccoli al Silicio e di questa apertura e slancio verso la musica. Se poi volete lasciamo anche il numero di telefono di Gino, così potete per mandargli messaggi. Mandargli messaggi e dirgli ma quanto è bello sentire tutti i brani. Sì. E non sempre fu l'acuti, però no, vabbè, no, ora non esageriamo, non ci allarghiamo. Comunque, i brani li ho scelti io lo stesso. Comunque noi abbiamo lasciato lo spazzolino in bagno, qui nella Wombat Regia, e quindi ormai è andata così. Beh, io lunedì prossimo non vengo. Ma fate voi la trasmissione, voglio vedere. Sì, abbiamo un po' scottato. Va bene, diciamo le ultime due ricette così poi liberiamo. Sì, abbiamo deciso di accorciare troppo, stiamo veramente parlando troppo. E quindi abbiamo deciso che verteranno solo su altri due argomenti faremo. Comunque erano questi, non è che ce n'erano altri. Stai zitta, che non lo sanno, che sembra che abbiamo preparato un sacco di cose, no? E allora abbiamo scelto dal nostro calderone che appunto ha visto il brainstorming di mesi e la moltitudine qui accanto a noi poteva durare tantissimo. Abbiamo deciso di parlare sostanzialmente solo più di torrent. e poi un altro accenno a un altro più di nicchia ma molto utilizzato per lo scaricamento della musica, che è la rete SoulSeek. E parliamo di Torrent, dunque. Allora, Torrent penso sia uno dei, in questo momento, più utilizzati per il file sharing. È sempre un peer-to-peer. Essenzialmente Torrent è l'estensione del BitTorrent. È un sistema di condivisione file estremamente diffuso, che ultimamente, diciamo, ha subito un colpo con la chiusura di TNT Village, almeno per quanto riguarda, diciamo, la parte italiana. E quello che io più che altro volevo dire era che TNT Village da un po' di tempo fa aveva rilasciato il dump di tutto il loro database, che però è stato richiuso, è stato ritolto, diciamo. Quindi allora, intanto è possibile ritrovarlo, questo dump, che è comodissimo, usando l'archivio dell'internet. Quindi se vi cercate dall'archivio dell'internet ci sono tutte le pagine storiche dell'internet, e comunque che è archive.org. Sì, il web archive, web archive, ok. E comunque, se no, c'è un altro TNT Village, essenzialmente, che è nato dalle sue ceneri, è nato da poco, si chiama culturadigitale.me, che è molto molto utile, oppure rifarsi ai classici Search Torrent, i vari che ci sono, diciamo, a giro, e sono searchtorrent.io, torrents2.eu, e insomma ce n'è svariati. Trovo comunque molto importante ancora la condivisione dei file, cioè spero che continui per tanto questa cosa, insomma. Ma perché i dump, per chiarire magari che chi ci ascolta, qualcuno magari non ha colto un po' la cosa, è che fondamentalmente i file, con la chiusura di TNT Village, però i file ci sono ancora, non è che i file risiedevano su un server del signor TNT Village. Risiedevano nei seeders. Ogni volta che ti colleghi alla rete torrent, te diventi anche seed di quelle risorse che fornisci. Quindi, diciamo, esiste nel momento in cui la gente non toglie questi file dal proprio disco e continua a stare dentro la rete torrent. Cosa che non abbiamo detto abbastanza, forse, che invece deve essere detta più volte, è il fatto che chiaramente la condivisione funziona se tutti ci mettono un pezzetto, cioè il peer-to-peer e il file sharing funzionano se questo grosso archivio collettivo viene nutrito di file. Chiaramente se nessuno si scarica più niente perché tutti guardiamo tutto in streaming, è chiaro che poi si troverà anche molta meno roba. Se invece riprendiamo a nutrire, oppure secondo quello che dice Rumore e Vice, continuiamo a nutrire questo archivio collettivo, ecco, allora chiaramente non sottraiamo l'infa a questo mondo. Se continuiamo, cioè è un po' una questione di come dire, di volerci credere un po' nel progetto. Se ognuno pensa a se stesso, la propria comodità, poi fa sì che però chi magari vuole invece condividere i file e magari non è sempre acceso all'internet, quei file non li trova. Sì, è un po' la caratteristica di tutto il peer-to-peer, è questo. Cioè il peer-to-peer si basa appunto su una rete tra pari, e quindi la rete tra pari è grossa se ci sono tanti pari, se no è piccola. E più è piccola e meno c'è materiale, chiaramente. E è una caratteristica questa anche, in realtà, dell'altra cosa di cui volevamo velocemente accennare, che era la rete, quella di SoulSeek, che sostanzialmente la menzioniamo perché c'è un client che è molto utilizzato, che è Nicotine, almeno per chi utilizza sistemi operativi Linux simili. E, cioè le varie distro di Linux, è un sistema, in realtà, in questo caso sempre di peer-to-peer, ma c'è un server centralizzato per le ricerche, uno o più, quindi è una rete. In realtà poi un altro tool molto utilizzato è Amule, che è per una rete diversa che la rete Donkey, però comunque in realtà tutti questi sistemi sono abbastanza simili, a parte il torrent che si è un po' distinto, diciamo più per, una, più per, la, per l'architettura del, del protocollo che non per, per l'approccio filosofico in realtà, perché in tutti questi sistemi in realtà solitamente tu offri il tuo hard disk, quello che c'hai sul disco, le tue risorse per fare scaricare e per scaricare a tua volta. Anzi spesso la, diciamo la, in alcune reti no, sei appunto penalizzato se non permetti lo scaricamento, cioè hai un ID basso, hai un ID più alto se permetti di scaricare, e non è una cosa che noi incoraggiamo particolarmente, però così funzionano queste reti. E appunto la rete SoulSeek è quella storicamente più famosa e utilizzata per lo scaricamento di musica, e anche qui in realtà si tratta di un tool abbastanza semplice da utilizzare. Viene quando uno si inizia, diciamo, a scaricare, a differenza del torrent, qua sono necessari degli utenti. Gli utenti però sono abbastanza farlocchi, cioè nel senso che tu ti registri con un utente a caso e vai così. Cioè non è una registrazione di quelle dove ti chiedono dati o devi in qualche modo pagare. E gli approcci un po' di tutti questi sistemi appunto che abbiamo menzionato sono del tutto simili, quindi io non so se merita fare degli approfondimenti tecnici, magari potremmo fare delle cose dedicate, un possibile sviluppo di questa cosa che secondo me potrebbe essere interessante, però richiede magari una puntata apposta e un poco più di studio da parte nostra, è un approfondimento rispetto al funzionamento tecnico e a quanto queste reti si pongono il problema e in che modo facciano a garantire, se lo garantiscono, quasi nessuno lo fa, diciamo gli aspetti di anonimato e riservatezza degli utilizzatori. Cioè quanto di me dico utilizzando la rete torrent o utilizzando sul SoulSeek o a Mule, a parte sì il fatto che sto condividendo il disco, d'accordo, però quanto informazioni è possibile trarre studiando dal di fuori, ponendomi nell'ottica, diciamo, di quello che vuole smontare la rete, no? Quindi che vuole additare i pirati, diciamo, no? Quanto queste reti rivelano di ciascuna persona attaccata, e per arrivare poi magari a delle conclusioni che da un punto di vista tecnico potrebbero essere scoraggianti, però secondo me la base del discorso è che queste reti non si tengono, ma in generale tutto questo fenomeno del file sharing non si può poggiare solo su un'argomentazione tecnica. Cioè è più la massa critica che fa la differenza, perché comunque è molto difficile garantire reti che siano in qualche modo anonime, però insomma non consumino un sacco di banda in qualche modo, o siano molto complicate da un punto di vista tecnico, no? Per dire, la rete Tor garantisce dell'anonimato, però non è una rete fatta per fare il file sharing, perché è molto, in qualche modo questo la farebbe collassare su se stessa. Quindi è evidente che i sistemi di scambio di questo tipo in qualche modo devono mettere in qualche modo anche da parte quegli escamotage tecnici che magari potrebbero garantire l'anonimato con una buona percentuale, per favorire in qualche modo un approccio più di, come la possiamo definire tecnicamente, l'illegalità fa ridere. No. Però è quella roba lì, cioè che siamo in tanti e lo facciamo tutti, e quindi necessariamente cazzi vostri, esatto, così. Sì, fra l'altro secondo me, ad esempio, prima parlavi di SoulSeek funziona bene, non tanto perché tecnicamente sia uno strumento meglio degli altri, ma perché, ora al di là della questione di anonimato, tecnicamente è una piattaforma file sharing esattamente come le altre, funziona bene perché è nata da una comunità musicale, prima era il giro più che altro di musica elettronica, poi si è diffuso un po' a tutti i generi musicali e si trova veramente di tutto. Tra l'altro ha dei meccanismi molto interessanti, anche molto usati, di chat, di scambio, dove tu puoi anche interagire con le persone da cui stai scaricando o a cui stai facendo scaricare, si possono condividere le proprie collezioni musicali, cioè si parte magari dallo scaricare un file e a chiedere a quella persona: oh, ma mi fai vedere che altri gruppi c'hai simili a questo. Quindi si crea poi quella che è in realtà lo scambio delle figurine e una comunità, quello che si assomiglia più a una comunità, non è tanto un mero strumento tecnico, ma è anche un po' è un po' la comunità che ci sta dietro, che alimenta quello strumento e che fa sì che poi funzioni bene effettivamente. Io lo uso un sacco e ve lo consiglio, perché veramente si trova di tutto. Poi, volendo solo accennare, ci sono un sacco di strumenti anche più vintage per gli amanti, tipo IRC, che funziona ancora bene per scambiarsi file. Ci sono appunto delle chat in cui tu entri, hai dei comandi sostanzialmente per cercare i file, per prenderli, e sono sistemi tendenzialmente buoni, anche se non troppo forse semplici da utilizzare, quindi si riferiscono più a degli amatori, non lo so come mai, in realtà a me non mi sembrano così complicati, però di fatto se ne sente parlare in realtà meno che di altri. Se no, comunque, ci preme dirlo, esiste sempre la fisicità. Cioè, nel senso che, tipo, gli vari esperimenti di, che ne so, noi ce ne abbiamo uno che abbiamo curato personalmente, persone che conosco, la classica Pirate Box è comunque un oggetto ganzo da avere. Cioè, uno fisicamente si attacca, capito? E in un luogo dove c'è, con la propria pennina USB, con il wifi o queste cose qua, è semplice scambiarsi, essendo fisicamente nello stesso luogo, file. E questo è in realtà uno strumento di condivisione anche bello, perché addirittura ci si vede quasi in faccia, quasi. Non poi non è obbligatorio guardarsi in faccia, però no, ti ci devi guardare, che deve essere nel range dell'access point, quindi se usi wifi, se proprio metti la pennetta, però possa anche essere come concepito come luogo di distribuzione, come il bancomat. Ma infatti tanto è vero, nel senso, vado lì, non è che per forza è vero, ma questo progetto addirittura in qualche parte del mondo, tra cui anche a Firenze a quanto pare, ha preso una piega particolare, cioè che la gente infilava la chiavetta USB all'interno dei mattoni del muro, la cementava veramente, sì. E te andavi lì in questo posto, che sapevi che esisteva questo posto, ci infilavi la tua chiavetta e ti pigliavi il virus, perché ti facciano lo scherzo. Certo, è chiaro, è evidente, ma questo qui lo puoi fare anche quando ti guardi in faccia, con la differenza che poi però le prendi, vabbè. Ma no, non si fa, vabbè, ma siamo così, siamo persone burlone. Ma ci siamo dimenticati solo un'ultima cosa, che era sta cosa del divertente che volevi dire te sulla ricerca di torrent su Messenger e Facebook. Già, giusto, me l'ero dimenticato. Cioè, la piccola perla finale. Che, allora, essenzialmente è una roba abbastanza divertente, è stata, che l'ho scoperta per caso, quando un amico mi chiedeva un sito per cercare appunto dei torrent. E io gli ho mandato tramite Messenger, che era l'unica cosa che avevamo, l'URL del sito. Con sommo sbigottimento abbiamo scoperto che Messenger ci censura l'URL del sito, del search del torrent. E con questo abbiamo visto che anche altri siti, quindi in realtà i siti di ricerca del torrent vengono in qualche modo censurati da Facebook. Ma hai provato a incodarlo in Base64? No. però probabilmente avrebbe funzionato, non metto in dubbio, però cioè, era strano come la cosa, butto là, no? Cioè, è stata un po' strana. Ma se te provavi, ma ti censurava proprio l'URL o anche la parola torrent? Cioè, se te dicevi... No, torrent funzionava. Torrent, cioè, se addirittura se scrivevi sbagliato il sito, funzionava. Ah, ok. Infatti, alla fine, molto più semplicemente, l'abbiamo mandato diviso in due. Ah, certo. Cioè, quindi si ritorna in realtà... Al cifrare di Cesare. No. Non al cifrare di Cesare, al motivo per cui ad esempio è nato il modo di scrivere quello che tutti attribuiscono agli hacker con i caratteri strani. Esatto. Perché per sviare i controlli automatici, capito, dei governi nelle chat. E quindi uno scriveva le cose con i caratteri strani. E veramente i primi, la prima scena, quella dei Warriors, cioè dei software pirata, eccetera. E uno dei motivi per cui scrivevano così era veramente questa paranoia. Ah, no, perché erano strani? Cioè c'era un... Dipende dalle storie che ascolti. Però tendenzialmente una delle possibili origini di questa roba pare essere la paranoia della prima scena, appunto quella degli anni 80 dei Warriors, su i metodi di intercettazione automatica delle chat. Cioè non avevano... per sviare scrivevano le cose in maniera strana e si inventavano questo lessico che poi è quello, che ne so, con i numeri al posto delle vocali o di alcune lettere. Non avevano il layout settato male la tastiera. No, era una scelta precisa. Non era il una gatto che camminava. Comunque di questo abbiamo parlato in altre puntate. Non apriamo i tombini aperti. No, lasciateli chiusi. No, quelli chiusi. Quelli aperti sono già aperti. Non serve aprirli. Ci si casca. Vabbè. Basta, abbiamo finito. Cioè, ti abbiamo fatto fare veramente concluso. La trasmissione più lunga nella sì, storia due di Coccoli. Sì, palle incredibili. Cioè, un'ora e mezza di trasmissione. Ma saranno tutti cioè, contenti. Io perderò tutti gli ascoltatori per colpa vostra. Sovvertiamo Coccoli al silicio. Sì, scottiamola. Vabbè, non posso neanche rivendicare il copyright perché è mezz'ora che infatti. Cioè un'ora e mezza che sprolochiamo. E però questi sono i motivi per cui poi nascono le cose, no? Netflix. Esatto. È un attimo. Va bene, buonanotte. Come back no more. The policeman, you better not let him round. Policeman, better not let him round. If you do, I'm sure gonna shoot him down. Joe Tano, man, I do despise. Joe Tano, man, I do despise. Going around trying to take men wise. I left Joe Tano standing in my door. I left Joe Tano. He may steal my good girl, all I know. Jotana drove in from my door. May steal my good girl, all I know.